naturalmente questa è la bellezza piena della relazione. Poi ci scontriamo nella quotidianità con le incomprensioni, con le nostre paure, con le difficoltà, e con la vita, con la quotidianità, con la frenesia di ogni giorno. Però io ritengo che perché questo si possa realizzare dobbiamo partire da alcuni punti fermi che non possono non esserci. Intanto un punto importante è dare all'altro la pari dignità, altro sia uomo che donna, no? Dare all'altra persona la pari dignità, perché oggi più che mai si parla tanto di pari diritti, di uguaglianza tra uomini e donne, e non si parla invece della pari dignità. Cioè la pari dignità è conoscere il bisogno dell'altro e dare cittadinanza a questo bisogno dell'altro, vedere l'altro, chi è l'altro, no? Cosa pensa, cioè cosa desidera dentro di sé, e quindi diventa fondamentale la pari dignità. E ogni volta uno dice, ah, ma io gliela do a tutti, io figuriamoci, mio marito se non gli do pari dignità, anzi lui forse non la dà a me, però io vi posso assicurare che non è proprio così, perché ogni volta che noi parliamo col coniuge, diciamo, senti, per dire, io sono stanca di portare il bambino a calcio perché io lo faccio ogni giorno, tu non lo fai mai, gli sto togliendo la pari dignità. Perché ritengo che lui non abbia la stessa dignità che ho io, perché io lo faccio, lui è una mancanza, cioè gli faccio notare le sue mancanze, gli tolgo la pari dignità. Per cui ogni volta che parliamo con l'altro e gli diciamo all'altro, ah, perché io faccio questo, perché tu sei così, perché tu fai questo, perché tu, togliamo all'altro la pari dignità. E allora quando dice, allora non mi devo lamentare mai, no. Uno si lamenta, ci dobbiamo lamentare, ma più che lamentare dobbiamo parlare dei nostri bisogni, delle nostre necessità, ma senza far riferimento all'altro. Cioè io sono stanca, troviamo una soluzione. Io questa cosa non riesco a farla, non posso accompagnare il bambino ogni giorno, io mi devo andare ogni tanto anche dal parrucchiere, oppure mi devo fare le unghie. Tesoro, mi dai una mano? Mi aiuti? Facciamo qualcosa insieme, decidiamo? Come si può fare? Cioè, allora dobbiamo essere costruttive e non dobbiamo fare riferimento sempre all'altro facendogli notare tutte le sue benedette mancanze, perché questo toglie, intanto interrompe la comunicazione, prima, perché quello di qua gli entra, di qua gli esce, perché è così, perché lo facciamo anche noi, noi siamo uguali, no? È la stessa cosa. E poi veramente lo stiamo rendendo, veramente, gli facciamo notare che lui, che cos'è in fondo? Uno che non fa niente, un miserabile, un poveretto. E allora pensiamoci un po' a questo aspetto, cioè di dare all'altro pari dignità. Io posso, devo anzi, tirare fuori i miei bisogni e le mie necessità, ma non devo mai ricorrere a questo. E questo è un aspetto, a mio avviso, molto importante. Un altro aspetto altrettanto importante, oggi più di prima, almeno per me, che faccio un lavoro di pronto soccorso, è l'integrità della persona. Cioè io non posso nella relazione venire meno alla mia integrità. E non parlo solo dell'integrità psicologica, molte donne che sono succubi o anche molti mariti poverini, no? Come la barzelletta dice del paradiso, dice tutti quelli che dove comandavano le mogli in fila a destra e i mariti dove comandavano i mariti a sinistra, dice ma c'era un netto uno solo là dall'altro, dice come mai tu? Dice me l'ha detto mia moglie di mettermi qua. E allora insomma voglio dire, cioè dobbiamo cercare, non ridete troppo, dobbiamo cercare veramente di essere persone integre, e oggi più che mai, e anche da un punto di vista, dobbiamo cercare di avere integrità anche fisica. Cioè ora io vedo tante donne o anche tanti uomini che vengono picchiati dalle proprie consorti, arrivano a pronto soccorso con lividi, graffi, morsi, che uno dice, poi lo fanno per l'avvocato, però intanto ce l'hanno i segni tangibili delle violenze subite, no? E allora, ecco, non si può prescindere dall'integrità fisica, e non si può neanche altrettanto prescindere dall'integrità psicologica. Cioè io ho dei bisogni, ognuno di noi ha dei bisogni e delle necessità, che sono bisogni reali, bisogni veri, necessità vere, concrete, e quelle non possono, cioè, prescindere. Però anche qui dobbiamo stare molto attenti, perché adesso di questi bisogni se ne fa un lungo abuso, cioè ora abbiamo bisogno di tutto, per cui tutti i bisogni superflui sono diventati bisogni necessari. Cioè anche qui impariamo a vedere qual è il bisogno vero, a proprio analizziamoci sui nostri bisogni, su quelli che sono veri e quelli che invece non lo sono. Per cui scartiamo quelli che non sono bisogni veri e cerchiamo invece di avere sempre presenti i nostri bisogni veri, no? Se mio marito va alla partita tutte le domeniche, l'unico momento in cui possiamo stare insieme, cioè questo è un bisogno vero, cioè io ho bisogno di stare con lui, la mia famiglia ha bisogno di stare col padre, e allora questo è un bisogno vero, bisogna portare avanti questa necessità, no? È una necessità. Se invece voglio la scarpa firmata, non mi pare che è un gran bisogno, perché se mio marito non me la compra non è che mi posso offendere più di tanto, no? O dirà, lui non capisce che io così non mi sento realizzata. No. Allora, cerchiamo anche di imparare, ecco, a scindere i nostri bisogni veri da quelli invece che non lo sono, che non sono tanto reali. E poi un altro aspetto fondamentale... Io troppo, sto parlando a lungo. No, sto chiedendo per la domanda. Anche 5 minuti. Vabbè, facciamo finire il... Sì, sì. Conservate la domanda. Potete fare quello che volete. E poi ci saranno le domande. E poi un altro bisogno importante è il bisogno essere autentici. Oggi c'è un po' di difficoltà ad essere veramente persone autentiche, ma ricordiamoci che le persone autentiche sono le persone più credibili, solo una persona autentica è credibile fino in fondo. E allora cerchiamo veramente di avere presente, no? Di essere veramente persone autentiche, che hanno veramente presente, no? Le proprie emozioni, le proprie azioni, e che a questo danno appunto cittadinanza. E una volta che io ho dentro di me, no? Sono una persona autentica, ho capito dove vado, quello che voglio, poi è più facile mostrarmi all'altro, no? Così come sono, perché non posso donarmi all'altro se non mi mostro come sono realmente. E di questo oggi se ne ha sempre più bisogno, perché io lo vedo un po' anche con i bambini, ma anche noi adulti, siamo sempre proiettati nel fare, perché abbiamo quasi paura del vuoto, no? Di avere degli spazi vuoti. Allora dice, che ci metto qua in questa mezz'ora che c'ho vuota, ci faccio la spesa, in questi 5 minuti ci faccio quest'altra cosa. Questo è tipico di noi donne, no? E quindi poi lo trasmettiamo anche ai bambini, che vengono trascinati da un'attività all'altra, che rifiutano alla fine spompati la sera, che non sanno più chi sono. E allora abbiamo veramente ora creato questa difficoltà, no? Perché l'autenticità nasce un po' dal conoscersi. Se io non mi interrogo e non capisco, no? Cosa voglio e dove vado, poi che cosa mostro all'altro se neanche io lo so. E allora questo, come diceva Spinoza, questo horror vacui, cioè questa paura, no? Del vuoto, dello spazio vuoto, cerchiamo di colmarlo con gli spazi dedicati a noi stessi per capire chi siamo, dove vogliamo andare, chi sono realmente, no? Perché così se io scopro chi sono, scopro i miei bisogni, le mie necessità, mi posso mostrare all'altro veramente. E allora posso realizzare questa bellezza, no? Di questa relazione coniugale piena con l'altro, mi posso veramente mescolare all'altro. In chimica sì, le sostanze si mescolano, no? Alcune si mescolano, altre invece non si possono mescolare, fanno i miscugli, alcuni fanno i miscugli, altri invece no, no? E allora vediamo un po', cioè cerchiamo, perché si capiscono che cosa sono. Dice, io voglio fare una soluzione, lo metto questo con questo, no? Se voglio fare un'altra cosa metterò sostanze diverse, non sono un chimico, quindi dico stupidaggini. Però ecco, abbiamo presente la natura delle cose. Allora se noi abbiamo dentro di noi, sappiamo chi siamo realmente, allora sì che ci possiamo mescolare ad un'altra persona, perché siamo persone autentiche, no? E così possiamo raggiungere, ecco, questa, la bellezza di questa relazione coniugale, che secondo me in qualche modo, ecco, si può riprendere con un'immagine bellissima che ho letto qualche tempo fa facendo così, scherzando con mia figlia che è al liceo, che è l'immagine, l'incontro di Ettore e Andromaca. L'incontro di Ettore e Andromaca davanti alle porte Scee. quando Ettore va verso Andromaca, Andromaca, dice Omero, sorrise nel pianto. Ed è una cosa bellissima, cioè il sorriso della persona amata, no? Cioè sorride perché sa che quello è il suo amore, cioè diciamo il fine ultimo della sua esistenza, cioè la persona per cui vive. Quindi questo sorriso pieno d'amore. E poi nel pianto, perché sta iniziando a vivere il distacco, no? Perché sa che lo vedrà per l'ultima volta, perché poi lo sa che quello morirà. E quindi anche questo distacco. E poi quando lo vede da vicino, gli dice: tu sei per me mio padre, mia madre, mio fratello e mio compagno di letto. Allora, secondo me, veramente, questo è un po' in sintesi quello che deve essere la bellezza della relazione coniugale. Cioè, tu sei per me mio padre, sei la persona alla quale mi posso appoggiare, che mi protegge. E questo vale anche il nostro coniuge, si deve sentire protetto, appoggiato da noi. Tu sei per me mia madre, la persona che accoglie, cioè la madre è l'accoglienza, è l'accudimento. Come diceva appunto José María Escrivá de Balaguer, cioè il marito deve essere il figlio più piccolo, no? L'accoglienza della madre, la cura per l'amato, che solo una madre può avere. Quindi essere per nostro marito la madre. E poi il fratello, non l'amico qualunque, il fratello perché nel rapporto di fratellanza c'è veramente quella pari dignità, perché siamo nati dalla stessa persona, no? Siamo accomunati dalla stessa intimità, che è quella dell'intimità della famiglia. E poi per ultimo mio compagno, no, di letto, cioè la persona con cui divido la mia sessualità, con cui vivo una sessualità piena, cioè che mi fa sentire veramente donna fino al midollo. E allora se io non riesco a realizzare veramente tutto ciò, vuol dire che c'è qualcosa che va un po' ridimensionata e va un po' rivista per raggiungere veramente questa bellezza della relazione coniugale, che se abbiamo avuto la fortuna di vivere non ce la possiamo sprecare. Grazie.